almeno il consumatore medio chiede comunque un impianto Hi-Fi e spesso, se non un impianto Hi-Fi, un impianto home theater da aggiungere in casa. E quanto vuole spendere più o meno? Mediamente sugli impianti Hi-Fi si è intorno ai 100 euro. Tempo fa si diceva che il settore dell'audio, anche alle fiere di tecnologia, fosse un po' dato per sconfitto, per morto. È un settore su cui puntate invece oggi, anche con il 3D? Allora, è vero che in passato ha avuto una flessione importante il settore dell'audio. Questo più che altro è dovuto anche a un discorso dell'integrazione di più apparecchiature in un'unica sola. È pur vero che oggi è abbastanza stabile, quindi è vero che c'è stato un decremento nel passato, ma oggi ha una stabilità, quindi non crediamo che nel futuro continui a decrescere. Anzi, il 3D sta risviluppando interesse nei confronti del consumatore proprio perché vorrebbe avere un qualcosa che completi l'effetto cinema nei suoi appartamenti, nelle proprie case. Quindi sicuramente vedremo nel breve futuro un indirizzamento, un interessamento più importante nel settore audio, soprattutto per l'home theater.